Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. «Vostro fratello non ci sta?» domandò la marchesa. «Povera zia, essa ti fa pure gli occhiali e tu così la ringrazi», diceva intanto Mariuccia Eugenia che tremava. «Sì, signora, eccomi qua», rispose don Peppino, che fino a quel momento era stato mezzo nascosto dietro la porta del basso, agitando un cartone davanti al fornello dove cuocevano i fagioli per il pranzo. «Potete salire?» ma mia moglie è andata a ritirare gli occhiali di Eugenia. Io sto badando ai fagioli, vorrebbe aspettare se non vi dispiace. Allora mandatemi su la creatura. Tengo un vestito per Nunziata, glielo voglio dare». «Dio ve ne renda merito, obbligatissimo», rispose don Peppino con un sospiro di consolazione, perché era quella l'unica cosa che poteva calmare sua sorella. Ma guardando Nunziata si accorse che essa non si era affatto rallegrata. Continuava a piangere dirottamente, e quel pianto aveva tanto stupito Pasqualino che il bambino si era chetato per incanto e ora si leccava il catarro che gli scendeva dal naso con un piccolo, dolce sorriso. «Hai sentito? Sali su dalla signora marchesa, ti deve dare un vestito», disse don Peppino alla figlia. E Eugenia stava guardando qualche cosa nel vuoto, con gli occhi che non ci vedevano. Erano fissi, fissi e grandi. Trasalì e si alzò subito, obbediente. «Dille, Dio ve ne renda merito, e rimani fuori la porta». «Sì, papà». «Vi dovete credere, Mariuccia», disse zia Nunzia quando Eugenia si fu allontanata. «Io a quella creatura le voglio bene, e dopo mi pento quanto è vero Dio di averla strapazzata. Ma mi sento tutto il sangue alla testa, mi dovete credere, quando devo combattere con i ragazzi. La gioventù se n'è andata, lo vedete?» E si toccava le guance infossate. «A volte io mi sento come una pazza. D'altra parte pure loro devono sfogare», rispose donna Mariuccia. «Sono anime innocenti, avranno tempo per piangere. Io, quando li vedo, penso che devono diventare tale e quale a noi». Andò a prendere una scopa e spinse via una foglia di cavolo dalla soglia. «Mi domanda che cosa fa Dio». «Ve lo siete tolto nuovo nuovo», disse Eugenia, piantando il naso sul vestito verde steso sul sofà in cucina, mentre la marchesa andava cercando un giornale vecchio per involtarlo. Là d'avanzo pensò che la bambina non ci vedeva davvero, perché se no si sarebbe accorta che il vestito era vecchissimo e pieno di rammendi. Era di sua sorella morta, ma si astenne dal fare commenti. Solo dopo un momento, mentre veniva avanti col giornale, domandò: «E gli occhiali te li ha fatti la zia? Sono nuovi? Col filo dorato, costano 8.000 lire! Rispose d'un fiato Eugenia, commuovendosi ancora una volta al pensiero del privilegio che le toccava. «Perché io sono quasi ciecata», aggiunse semplicemente. «Secondo me», fece la marchesa involtando con dolcezza il vestito nel giornale e poi riaprendo il pacco perché una manica veniva fuori. «Tua zia se li poteva risparmiare. Ho visto degli occhiali ottimi in un negozio dell'Ascensione per sole 2.000 lire. Eugenia si fece di fuoco. Capì che la marchesa era dispiaciuta. «Ognuno nel suo rango. Tutti ci dobbiamo limitare», l'aveva sentita dire tante volte parlando con donna Rosa che le portava i panni lavati e si fermava a lamentarsi della penuria. «Ma forse quegli occhiali da 2.000 lire non erano buoni. Io tengo 9 dioptrie. Ribatté timidamente. La marchesa inarcò un ciglio, ma Eugenia per fortuna non lo vide. «Erano buoni, ti dico», si ostinò con la voce leggermente più dura là d'avanzo. Poi si pentì. «Figlia mia», disse più dolcemente, «parlo così perché so i guai di casa tua. Con 6.000 lire di differenza ci compravate il pane per 10 giorni, ci compravate. A te che ti serve vedere bene per quello che tieni intorno?» Un silenzio. «A leggere, leggevi?» «No, signora». Qualche volta invece ti ho vista col naso sul libro. Anche bugiarda, figlia mia, non sta bene. Eugenia non rispose più. Provava una vera disperazione, fissava gli occhi quasi bianchi sul vestito. E seta? Domandò stupidamente. La marchesa la guardava, riflettendo. Non te lo meriti, ma ti voglio fare un regaluccio, disse a un tratto e si avviò verso un armadio di legno bianco. In quel momento il campanello del telefono, che era nel corridoio, cominciò a squillare. Invece di aprire l'armadio, la d'avanzo uscì per rispondere all'apparecchio. Eugenia, oppressa da quelle parole, non aveva neppure sentito la consolante allusione della vecchia, e appena fu sola si mise a guardare intorno come le consentivano i suoi poveri occhi. Quante cose belle, fini, come nel negozio di via Roma. E lì, proprio davanti a lei, un balcone aperto con tanti vasetti di fiori. Uscì sul balcone. Quant'aria! Quant'azzurro! Le case, come coperte da un velo celeste, e giù il vicolo, come un pozzo, con tante formiche che andavano e venivano, come i suoi parenti. Che facevano? Dove andavano? Uscivano e rientravano nei buchi, portando grosse briciole di pane. Questo facevano, avevano fatto ieri, avrebbero fatto domani, sempre, sempre, sempre. Tanti buchi, tante formiche. E intorno, quasi invisibile nella gran luce, il mondo fatto da Dio, col vento, il sole e laggiù il mare pulito, grande. Stava lì, col mento inchiodato sui ferri, improvvisamente pensierosa, con un'espressione di dolore che la imbruttiva, di smarrimento. Suonò la voce della marchesa, placida, pia. Teneva in mano, nella sua liscia mano d'avorio, un librettino foderato in cartone nero con le lettere dorate. «Sono pensieri di santi, figlia mia. La gioventù oggi non legge niente, per questo il mondo ha cambiato strada. Tieni, te lo regalo, ma mi devi promettere di leggerne un poco ogni sera, ora che ti sei fatta gli occhiali». «Sì, signora», disse Eugenia frettolosamente, arrossendo di nuovo perché la marchesa l'aveva trovata sul balcone, e prese il libretto che essa le dava. La d'avanzo la guardò compiaciuta. «Iddio ti ha voluto preservare, figlia mia», disse andando a prendere il pacchetto col vestito e mettendoglielo tra le mani. «Non sei bella, tutt'altro, e sembri già una vecchia. Iddio ti ha voluto prediligere perché così non avrai occasione di male. Ti vuole santa, come le tue sorelle». Senza che queste parole la ferissero veramente, perché da tempo era già come inconsciamente preparata a una vita priva di gioia, Eugenia ne provò lo stesso un turbamento, e le parve, sia pure un attimo, che il sole non brillasse più come prima, e anche il pensiero degli occhiali cessò di rallegrarla. Guardava vagamente, con i suoi occhi quasi spenti, un punto del mare, dove si stendeva come una lucertola di un colore verde smorto la terra di Posillipo. «Di a papà», proseguiva intanto la marchesa, «che per il materasso del bambino oggi non se ne fa niente. Mi ha telefonato mia cugina, starò a Posillipo tutto il giorno». «Io pure una volta ci sono stata», cominciava Eugenia rianimandosi a quel nome e guardando incantata da quella parte. «Sì, veramente». La d'avanzo era indifferente. Per lei quel nome non significava nulla. Con tutta la maestà della sua persona, accompagnò la bambina, che ancora si voltava verso quel punto luminoso, alla porta che chiuse adagio alle sue spalle. Fu mentre scendeva l'ultimo gradino e usciva nel cortile che quell'ombra che le aveva oscurato la fronte da qualche momento scomparve. E la sua bocca s'aperse a un riso di gioia, perché Eugenia aveva visto arrivare sua madre. Non era difficile riconoscere la sua logora, familiare figura. Gettò il vestito su una sedia e le corse incontro. «Mamma, gli occhiali!» «Piano, figlia mia, mi buttavi a terra!» Subito si fece una piccola folla intorno. Donna Mariuccia, Don Peppino, una delle Gregorio che si era fermata a riposarsi su una sedia prima di cominciare le scale, la serva di Amodio che rientrava in quel momento e, inutile dirlo, Pasqualino, Teresella, che volevano vedere anche loro e strillavano allungando le mani. Nunziata, dal canto suo, stava osservando il vestito che aveva tolto dal giornale con un viso deluso. «Guardate, Mariuccia, mi sembra roba vecchia assai. È tutto consumato sotto le braccia», disse accostandosi al gruppo. Ma chi le badava? In quel momento Donna Rosa si toglieva dal collo del vestito l'astuccio degli occhiali e con cura infinita lo apriva. Una specie di insetto lucentissimo, con due occhi grandi, grandi e due antenne ricurve, scintillò in un raggio smorto di sole, nella mano lunga e rossa di Donna Rosa, in mezzo a quella povera gente ammirata. 8.000 lire? Una cosa così? Fece Donna Rosa guardando religiosamente, eppure con una specie di rimprovero, gli occhiali. Poi, in silenzio, li posò sul viso di Eugenia, che statica tendeva le mani e le sistemò con cura quelle due antenne dietro le orecchie. «Mo, ci vedi?» domandò accorata. Eugenia, reggendoli con le mani come per paura che glieli portassero via, con gli occhi mezzo chiusi e la bocca semiaperta in un sorriso rapito, fece due passi indietro, così che andò a intoppare in una sedia. «Auguri!» disse la serva di Amodio. «Auguri!» disse la Gregorio. «Sembra una maestra, non è vero?» osservò compiaciuto Don Peppino. «Neppure ringrazia!» fece zia Nunzia guardando amareggiata il vestito. «Con tutto questo auguri!» «Tiene paura, figlia mia!» mormorò Donna Rosa, avviandosi verso la porta del basso per posare la roba. «Si è messi gli occhiali per la prima volta!» disse alzando la testa al balcone del primo piano dove si era affacciata l'altra sorella Gregorio. «Vedo tutto piccolo piccolo!» disse con una voce strana, come se venisse di sotto una sedia Eugenia. «Nero, nero!» «Ma si capisce, la lente è doppia, ma vedi bene?» chiese Don Peppino. «Questo è l'importante. Si è messi gli occhiali per la prima volta», disse anche lui, rivolto al cavaliere Amodio, che passava con un giornale aperto in mano. «Vi avverto», disse il cavaliere a Mariuccia, dopo aver fissato per un momento, come fosse stata solo un gatto, Eugenia, «che la scala non è spazzata. Ho trovato delle spine di pesce davanti alla porta». E si allontanò curvo, quasi chiuso nel suo giornale, dove c'era notizia di un progetto legge per le pensioni che lo interessava. Eugenia, sempre tenendosi gli occhiali con le mani, andò fino al portone per guardare fuori, nel vicolo della cupa. Le gambe le tremavano, le girava la testa e non provava più nessuna gioia. Con le labbra bianche voleva sorridere, ma quel sorriso si mutava in una smorfia ebete. Improvvisamente i balconi cominciarono a diventare tanti, 2.000, 100.000. I carretti con la verdura le precipitavano addosso, le voci che riempivano l'aria, i richiami, le frustate la colpivano in testa come se fosse malata. Si volse barcollando verso il cortile e quella terribile impressione aumentò. Come un imbuto viscido il cortile, con la punta verso il cielo e i muri lebbrosi fitti di miserabili balconi, gli archi dei terranei neri, coi lumi brillanti a cerchio intorno all'addolorata, il selciato bianco di acqua saponata, le foglie di cavolo, i pezzi di carta, i rifiuti, e in mezzo al cortile quel gruppo di cristiani cenciosi e deformi, con i visi butterati dalla miseria e dalla rassegnazione, che la guardavano amorosamente, cominciarono a torcersi, a confondersi, a ingigantire. Le venivano tutti addosso, gridando, nei due cerchietti stregati degli occhiali. Fu Mariuccia per prima ad accorgersi che la bambina stava male e a strapparle in fretta gli occhiali, perché Eugenia si era piegata in due e, lamentandosi, vomitava. «Le hanno toccato lo stomaco!» gridava Mariuccia reggendole la fronte. «Portate un acino di caffè, Nunziata!» 8.000 lire, vive, vive!» Gridava con gli occhi fuori dalla testa zia Nunzia, correndo nel basso a pescare un chicco di caffè in un barattolo sulla credenza. E levava in alto gli occhiali nuovi, come per chiedere una spiegazione a Dio. «E ora sono anche sbagliati!» «Ma fa sempre così la prima volta!» diceva tranquillamente la serva di Amodio a Donna Rosa. «Non vi dovete impressionare, poi a poco si abitua!» «E niente, figlia mia, e niente! Non ti spaventare!» Ma Donna Rosa si sentiva il cuore stretto al pensiero di quanto erano sfortunati. Tornò zia Nunzia con il caffè gridando ancora 8.000 lire vive vive!» intanto che Eugenia, pallida come una morta, si sforzava inutilmente di rovesciare, perché non aveva più niente. I suoi occhi sporgenti erano quasi torti dalla sofferenza e il suo viso di vecchia inondato di lacrime, come stupidito. Si appoggiava a sua madre, tremava. «Mamma, ma dove stiamo?» «Nel cortile stiamo, figlia mia», disse Donna Rosa pazientemente, e il sorriso finissimo, tra compassionevole e meravigliato, che illuminò i suoi occhi, improvvisamente rischiarò le facce di tutta quella povera gente. «È mezza ciecata, no, no, è mezza scema, «Lasciatela stare, povera creatura, è meravigliata», fece Donna Mariuccia, e il suo viso era torvo di compassione, mentre rientrava nel basso che le pareva più scuro del solito. Solo zia Nunzia si torceva le mani. 8.000 lire, vive, vive!» Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.